senza fare nulla di efficace una immigrazione clandestina che ha alimentato da una parte la criminalità e dall'altra ha generato situazioni di forte degrado come quella di Rosarno. E della piana complessiva nella provincia di Reggio Calabria. Sono arrivati in 3.000, erano ubriachi, hanno cominciato a camminare ancora per le vie della città, devastando tutto quello che trovavano. Qui la popolazione ha paura, è insoddisfatta, non ce la fa più, le proteste ci sono tutti arrabbiati. Visto anche nelle immagini poco fa le macchine che passavano di corsa ed erano fatte oggetto di lancio di sassi, di mazzate, eccetera, cose che in Italia davvero non siamo abituati fortunatamente a vedere, tranne forse l'anno scorso, due anni fa, quando ci furono i fatti in campagna legati anche in quel caso alla criminalità organizzata. Allora, nessuna giustificazione, sia chiaro, perché anche vivere in condizioni di schiavitù non giustifica che poi uno si faccia giustizia da solo. E poi teniamo conto di un'altra cosa, che stiamo parlando di immigrati che sono per lo più clandestini, immigrati extracomunitari clandestini. Allora, prego Giacinto. Scusate, cosa pensate di farvi giustizia da soli? No, non vogliamo giustizia da soli, ma noi li abbiamo accolti, li curiamo, e gli diamo vestiti, gli diamo di tutto, perché vediamo che sono brava gente, no, però alla fine non sono tanto brava gente. Ma li hanno aggrediti? Li hanno aggrediti. Isolati. Non è da connettere né alla 'ndrangheta né al razzismo. Diciamo che il popolo africano è il più numeroso. Il popolo africano viaggia anche dello continente. Insomma, io ho già detto che non è da associare. Il più numeroso. Portoghesi, ed è per questo che in molti dialetti italiani si chiama Portogallo, in Basilicata Portayal, in Campania Partual, in Emilia Portugal, in Lombardia e Piemonte Portogallo, lì è semplice, in Sicilia Partuallo, in Veneto Naranza. L'arancio, albero, può produrre fino a 500 arance, i fiori d'arancio sono bianchi e le spose li portano all'altare come a dire sono pura e candida come questo fiore. Lo sposo ci crede e dice sì. L'arancia contiene vitamina B per il sistema nervoso, vitamina C per il raffreddore. No, sì, no, non so, la vitamina C serve per regolare gli scambi intercellulari, questo serve per il raffreddore? Non so. Poi vitamina B e poi calcio, bromo, magnesio, fosforo, zinco, rame, ferro, zolfo. è povera di zuccheri, quindi ideale per i diabetici, però è anche ricca di antiossidanti, che nessuno sa bene che cazzo sono, però dice che fanno bene. Penso, mangio un'arancia, non mi ossido, perché ossidarsi a occhio e croce non è una cosa bella. La si può utilizzare in cucina per il piatto anatra all'arancia. Nel titolo di un famoso film, Arancia Meccanica, sta a indicare una persona bella di fuori, un po' bizzarra dentro, e chi ha visto il film sa di che tipo di bizzarria stiamo parlando. Principali paesi produttori: Brasile, Stati Uniti, Messico, India, Italia. Tagliata a metà, sembra proprio un sole con tutti i suoi raggi. L'arancia è arancione, ma non sapendo se è nata prima l'arancia o prima l'arancione, fa comunque allegria. Si può mangiare intera oppure berne il succo. È buona. Poi è famosa l'arancia rossa di Sicilia, l'hanno fatta pure IGP, Indicazione Geografica Protetta, però stranamente la fanno pure in Calabria l'arancia rossa, anzi addirittura ne fanno quasi due volte di più che in Sicilia, in Calabria. La Calabria, oh, questo bisogna dire, al nord, a scuola, la Calabria non si fa, cioè non esiste. Non so al centro o al sud, ma cioè te la dimentichi. Se non te la dimentichi è perché è attaccata alla Sicilia. Attaccata, non è proprio attaccata. Però la Sicilia è sempre stata un'isola, c'è sempre stata la mafia, te la ricordi? La Calabria, no, cioè anche le province. A scuola, quando ti interrogo. Casales, vieni fuori tu, sì. Allora, dimmi le province del Veneto. Facile, sono Veneto. Allora, Padova, Venezia, Vicenza, Verona, Treviso, Belluno. E Rovigo? Dico sempre Rovigo. Va bene. Poi vediamo, Molise. Ah, facile, sono solo due. Campobasso, Isernia. Bravo, grazie. Dai, l'ultima che ti chiedo, la Calabria. Allora, la Calabria è una regione italiana. Confina a nord con la Basilicata, a est con il Mar Ionio, a sud Ionio, anche un po' Mediterraneo, ovest Mar Tirreno e Sicilia. Cioè confina, no, c'è lo stretto, però come dice la parola stessa, stretto, Casales, le province, sì, le province, Reggio Calabria, provincia della Calabria, e capoluogo di regione, no. Il capoluogo di regione è Catanzaro, altra provincia della Calabria. Ah, a Catanzaro c'è la sede della presidenza e della giunta, invece a Reggio Calabria c'è il consiglio, così per non scontentare nessuno. Poi le province, Cosenza, e poi dal 1992 altre due, Crotone e Vibo Valentia, scritto Valentia, si legge Valentia. Al posto, grazie. La Calabria non è la protagonista di questa storia, è una co-protagonista, come l'Africa, è una co-protagonista, perché i veri protagonisti in carne e ossa sono due ragazzi, si chiamano Daniel e Antonio. Daniel è nato in Nigeria nel 1980, invece Antonio è nato a Rosarno, provincia di Reggio Calabria, sempre 1980. E alla fine di questa storia entrambi avranno quasi 30 anni. Siccome non è un giallo, il finale ve lo posso dire. Il 7 gennaio 2010, quindi poco più di un anno fa, alcuni sconosciuti sparano con dei fucili ad aria compressa dei colpi e feriscono due migranti che ritornano dai campi. Sono lì per la raccolta delle arance. La sera stessa, centinaia di africani fanno una protesta, ci sono scontri con la polizia, poi il giorno dopo, l'8 gennaio, più di 2000 africani scendono nelle piazze di Rosarno, i rosarnesi non stanno a guardare, e dopo gli scontri rimangono sul campo 54 feriti, qualche poliziotto, qualche rosarnese e poi i migranti. Ed è proprio in questi giorni che Daniel e Antonio si incontrano. Nessuno dei due conosce l'esistenza dell'altro, ma si incontrano. E siccome in questa storia tutti i particolari contano, allora diciamo anche i cognomi di questi due ragazzi. Daniel Allen, come il famoso regista e attore americano. E Antonio Bellocco, come una delle più potenti famiglie di 'Ndrangheta. Solo che mentre Daniel non è affatto imparentato con Woody Allen, Antonio è molto imparentato con il Bellocco. Però iniziamo da Daniel. Allora, Daniel è nato in Nigeria. Siccome so che io non sono l'unico non particolarmente ferrato in geografia qua dentro, per non farvi rimanere al buio, la Nigeria è in Africa. Sì, se questo è il deserto del Sahara, grande, sta sotto il deserto del Sahara ed è affacciata sull'oceano Atlantico. Infatti Daniel vive a Lagos, che è l'ex capitale, però è uno dei più grandi porti africani, fa 11 milioni di abitanti, quasi tre volte Roma, tanto per capirci. Daniel, dopo gli studi superiori, si iscrive all'università. I suoi genitori commerciano generi alimentari, quindi possono permettersi di pagare la retta dell'università. Daniel si iscrive a economia. È bravo. Gli piace. Poi succede un fatto. I genitori di Daniel muoiono in un incidente d'auto. Perciò Daniel è costretto ad andare a stare dalla nonna. Inizia a dare ripetizioni di matematica alle superiori per guadagnare qualche soldo, ma sono pochi, i suoi genitori sono morti entrambi, ma tiene duro perché economia gli piace, è bravo. Poi succedono altri due fatti. La nonna di Daniel muore, e direi che sfiga, sì, forse. L'altro fatto che non c'entra niente con la sfiga è che il governo alza le tasse universitarie. Perciò Daniel deve fare una scelta. O decidere di continuare a studiare altrove, o rimanere in Nigeria e fare un lavoro qualunque per sopravvivere. Daniel a casa c'è una TV in bianco e nero con cui riesce a vedere i canali inglesi, BBC, e sa che all'uno delle ottime università, ovvio, sa anche che c'è un tempo di merda lì, però alcuni amici gli hanno detto che anche in Italia ci sono buone università e che in Italia, insomma, gli italiani sono gentili, dicono proprio così. Sono gentili. Allora, se devi scegliere tra un tempo di merda e le persone gentili, Daniel sceglie l'Italia. La prima cosa che fa è andare all'ambasciata italiana a richiedere un visto. Si porta dietro il diploma, i voti degli esami, tutto quello che può certificare che lui è bravo, ha il diritto di continuare a studiare. Una volta arrivato dall'impiegato dell'ambasciata, glielo chiede il visto. Lui dice che ci vogliono $2000. Per cosa? Per il visto, sì. Ma è il reale costo del visto e la tangente che devo pagare per avere il visto? L'impiegato non lo dice, non può dirlo, fa il vago, però ci vogliono 2000. Daniel glielo dice, scusa, ma se io avessi $2000 non cercherei di andare in un altro posto, resterei qui a studiare. Di cosa c'è bisogno per avere questo visto? $2000, sì, vabbè. Daniel torna a casa con il diploma, i voti degli esami, è costretto a fare di nuovo la scelta. Restare o partire? E Daniel sceglie di nuovo di partire. È il momento di fare la valigia e salutare, ma se già ci impieghi un po' a fare la valigia per starvi una settimana, cosa ci metti nella valigia che ti servirà per il viaggio che ti cambierà tutta la vita? Daniel apre il trolley e mette, nell'ordine, i documenti, due paia di jeans, due t-shirt e quattro libri. Se la mamma di Daniel fosse ancora viva, forse avrebbe qualcosa da ridire sulla proporzione vestiti, libri, ma lei non c'è. I libri sono nell'ordine. Cosa dire quando parli a te stesso? Può servire. l'influenza del potere, anche questo, come cooperare con conflitti e crisi, e ultimo ma non ultimo, imparare l'ottimismo, come cambiare la vita cambiando il pensiero. Sono motivational books, vanno forte in Nigeria, ma lascia fare che anche in Italia e altrove. Oh, però non pensate che Daniel sia un ingenuo, non è ingenuo, sa che deve attraversare più di 1000 chilometri di deserto e che molte persone ci muoiono nel deserto, sa che deve attraversare la Libia e sa che molte persone ci muoiono in Libia, e sa anche che deve attraversare il Mediterraneo e che molte barche ci affondano nel Mediterraneo. Però Daniel è religioso, è cristiano, è molto religioso, e l'unica cosa che pensa è che Dio farà la sua volontà. Ha anche parlato con il prete della missione e anche lui gliel'ha detto: bisogna pregare perché Dio farà la sua volontà, la barca non affonderà. Perciò Daniel parte per l'Europa. Ci vogliono 500 chilometri per arrivare fino alla frontiera a nord con il Niger. Primo controllo di frontiera, primo controllo dei militari, primo nodo in gola. Vai tu a spiegare ai militari il troll e i motivational books. Loro lo tengono per un po', ma poi lo lasciano andare quasi subito. Il nodo in gola va giù. Altri chilometri, pochi, e poi c'è una specie di seconda frontiera. Secondo controllo dei militari, secondo nodo in gola. Il pensiero più facile è che se ti è andata bene la prima, la seconda è infatti. Daniel viene trattenuto assieme agli altri. I militari vogliono i soldi. Però mentre viene trattenuto, l'autobus parte con il trolley e ciao documenti, jeans, t-shirt, libri e soldi. Daniel se ne accorge troppo tardi e glielo dice che non li ha, ma i militari non gli credono perché tutti quelli che passano di lì hanno dei soldi. Allora per convincerlo iniziano a frustarlo sulla schiena con un cavo elettrico e a dargli delle bastonate sulle gambe, tutto questo per un'ora. Poi forse si stancano, forse capiscono che Daniel i soldi non li ha e lo lasciano andare. Dio farà la sua volontà, la barca non affonderà. Dobbiamo tornare da quest'altra parte del Mediterraneo, in Italia, Rosarno. Allora, Rosarno è l'uscita 42 su 55 della Salerno-Reggio Calabria. La A3 Salerno-Reggio Calabria è un'autostrada democratica, c'è un'uscita ogni 8 chilometri, ha la galleria stradale più pericolosa d'Europa, perché noi in fatto di record ne sappiamo, ci possono essere, puoi incontrare cartelli del tipo: in caso di vibrazione, attenzione, brillamento mine, come a dire non sono fuochi d'artificio. In 5 anni, gli ultimi 5 anni, ci sono state nei cantieri 215 azioni intimidatorie, quelle denunciate. È un'autostrada strana, la A3 Salerno-Reggio Calabria. Nel 65, in pieno boom economico, a Roma decidono che è l'ora di collegare l'Italia con la fosse una terza isola. Perciò partono i lavori. Il presidente del Consiglio è Aldo Moro. Nel 72, quando i lavori finiscono, il presidente del Consiglio non è più Aldo Moro, ma è Andreotti. A metà degli anni 80, che il presidente del Consiglio non è più Andreotti, ma è De Mita, si decide che forse bisogna mettere un po' mano a questa strada, perché non è che sia proprio un'autostrada degna di questo nome, ma sapete com'è? Su queste cose bisogna stare attenti, calmi, cauti, valutare bene. A metà anni 90, cioè dopo 10 anni, è tutto rimasto uguale. L'Unione Europea ci punzecchia un po', i giornalisti cavalcano l'onda, insomma nel 97 ripartono i lavori. Guardate che ho le carte, quindi non meglio. Nel 98, quindi a un anno dall'inizio dei lavori, un sottosegretario Diessino giura che la A3 sarà pronta nel 2003. Nel 2000 il ministro della sinistra Nesi assicura che verrà sistemata in 5 anni. Nel 2001, l'anno dopo, Lunardi invece dice: la finiremo nel 2004-2005, salvo poi posticipare la data al 2008. Nel 2006, però, lo stesso Berlusconi si sbilancia. Dice: ce la faremo per il 2009. Proprio nel 2009 il suo ministro azzarda l'ipotesi: sistemiamo tutto per finire 2011, inizio 2012. Nel 2009 l'assessore regionale ai lavori pubblici incontra i costruttori calabresi e forse, come dire, è un po' più sincero, dichiara: se Dio ci aiuta, la A3 sarà pronta nel 2020. L'ultima profezia risale al settembre 2010. In Parlamento Silvio Berlusconi dice: sarà completata nel 2013. Risate in aula. Il 13 ottobre 2010 l'ANAS assicura: i tentativi di infiltrazione mafiosa non fermeranno i lavori. Dopo 4 mesi contro l'infiltrazione mafiosa a presidiare i cantieri della Salerno-Reggio Calabria arriva l'esercito. La 3 è lo specchio dell'Italia. Ma il problema non è tanto quello, il problema è che la 3 è anche lo specchio dell''Ndrangheta e i due specchi in qualche modo combaciano. Perché la competenza formale della Salerno-Reggio Calabria è dell'ANAS S.P.A. Ma forse a qualcuno può venire un dubbio, no? Com'è possibile che ci vogliono 47 anni per costruire un'autostrada degna di questo nome? Com'è possibile? A qualcuno deve venire il dubbio che per costruirla ci sono voluti 22 milioni di euro a chilometro, per un totale di 10 miliardi di euro. Ah, perché la competenza formale è dell'ANAS S.P.A., ma la competenza sostanziale è dell''Ndrangheta e di tutte le famiglie dei territori in cui passa la Salerno-Reggio Calabria. Quando iniziano i lavori nel 65, Antonio Bellocco, l'altro nostro protagonista, non è ancora nato, lui nasce nell'80. Non è molto diversa la vita di Antonio da quella di Daniel, perché entrambi non nascono in una famiglia povera. Entrambi vanno a scuola, hanno la possibilità di farlo, entrambi a un certo punto della loro vita rimangono soli. Solo che mentre i genitori, la nonna di Daniel, muoiono, invece i genitori e i parenti di Antonio sono in carcere. Allora, ve lo vorrei presentare con un fatto. Antonio Bellocco sta andando sulla Salerno-Reggio Calabria con la macchina. Nella macchina ci sono lui, suo cugino Francesco e altri due amici. A un certo punto vedono che c'è un camion fermo sulla corsia d'emergenza con le 4 frecce. Allora Antonio rallenta e si mette proprio dietro. Il camionista vede con lo specchietto la macchina che si è fermata ed è contento perché ha finito la benzina. Succede a volte, dai. È contento, quindi pensa che quelli li possono aiutare, perciò scende dal camion. Antonio, Francesco e gli altri due amici scendono dalla macchina e si incontrano a metà strada. E glielo dice il camionista: che scemo, ho finito la benzina, meno male che siete venuti voi, se no chissà quanto dovevo aspettare. Antonio vede che il camionista ha un giubbotto di pelle molto bello, di quelli che piacciono a lui. Glielo chiede: ma di dove sei? Di Palagonia, vicino a Catania, dove fanno le arance. Ah, come a Rosarno. Sì, proprio come a Rosarno. Antonio colpisce con un pugno lo stomaco del camionista, Francesco gliene dà un altro sulla faccia, l'uomo cade a terra e viene assalito da tutti e quattro. Dopo qualche minuto Antonio va nel camion, fruga, trova 1.000 euro. Sta per raggiungere gli altri, che nel frattempo sono già entrati in macchina, ma passa vicino al camionista che è per terra privo di sensi, lo guarda, gli toglie il giubbotto, se lo prova, gli sta giusto, gli sta bene. Poi torna in macchina, direzione Rosarno. Antonio non sa che in quel momento dall'altra parte del Mediterraneo c'è un ragazzo che ha la sua stessa età che sta camminando nel deserto. E soprattutto la cosa che proprio non può immaginare è che un giorno si incontreranno. Daniel è dall'altra parte, sta camminando nel deserto assieme ad altri, è sul confine libico. Hanno solo dell'acqua, non hanno cibo, ma i poliziotti libici impiegano pochissimo a trovarli, ma per fortuna, perché nel deserto o incontri la polizia libica o muori. Li portano a Tripoli. Solo che Daniel non ha un posto dove stare, una casa. Poi oltretutto lì parlano una lingua diversa, alla faccia dei motivational books. Come fai? si arrangia assieme ad altri 10 in un posto di fortuna e la sera si affida a Dio, si mette a pregare, a cercare di ricordare qualche passaggio della Bibbia. Deuteronomio 17:19: poiché il Signore vostro Dio, il Dio grande, forte e tremendo, ama lo straniero e gli dà pane e vestito, amate dunque lo straniero, perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Daniel pensa, questo non è l'Egitto, è la Libia, però c'è il deserto lo stesso. Levitico 22:24: avrete una stessa legge, tanto per lo straniero quanto per il nativo del paese. E poi Daniel cerca di ricordarsi un passaggio di imparare l'ottimismo, come cambiare la vita cambiando il pensiero. Se di abitudine crediamo come i pessimisti, che la colpa dell'avversità sia nostra, che gli eventi negativi dureranno per sempre, subiremo più sventure di quanto succederebbe se utilizzassimo una diversa modalità di pensiero, cioè l'ottimismo. Perciò, allora, siccome Dio ama lo straniero, gli dà pane e vestito, ottimismo. Daniel la mattina dopo esce di casa per andare a cercare un lavoro e viene arrestato dalla polizia e portato a una prigione a 200 km da Tripoli. Alla faccia dell'ottimismo. Gli accordi italo-libici, che adesso sono sospesi, immagino che sappiate il perché, hanno portato questo. Centinaia di persone come Daniel, moltissimi anche richiedenti asilo, in prigione, senza aver mai subito un processo o senza aver mai incontrato qualcuno del commissariato dei rifugiati, qualcuno dell'ONU. Però di quello che dicono i politici su questa cosa qui ne parliamo dopo. Adesso siamo nella prigione libica. Non è tanto diversa, guardate, da quelle italiane, È più o meno semplice. Non c'è spazio. E in quella libica non c'è neanche lo spazio per allungare le gambe quando sei seduto per terra. Il mangiare fa schifo quando lo danno. Poi danno un litro di acqua al giorno, che ti deve servire e bastare per bere, lavarsi e pulirsi dopo aver fatto i propri bisogni. Ma non è neanche tanto questo il problema. Il problema è che torturano i detenuti ogni giorno. I maschi vengono picchiati sulle piante dei piedi con dei bastoni, ma non è che risparmiano le donne. Daniel assiste a una scena in cui una ragazza eritrea, evidentemente incinta, è per terra con il viso deformato dalla rabbia, il marito che cerca di difenderla perché c'è un poliziotto libico che spinge sulla sua pancia un bastone e glielo dice: bastarda, hai in pancia un ebreo, tu vuoi andare in Italia e poi in Israele per fottere gli arabi. Ma né lei né il marito né nessun altro può fare niente perché i poliziotti hanno le armi e soprattutto tutto il mondo ignora quello che sta succedendo lì. Molti cercano di suicidarsi. Daniel, in una di queste notti, conosce Joseph, che è un ragazzo liberiano di 27 anni. Lui gli racconta che lavorava per una ONG, l'Associazione Nazionale per la Prevenzione dei Suicidi, in Liberia. Dice: aiutiamo i bambini, perché in guerra molti bambini si suicidano. Com'è possibile? Com'è possibile che un bambino arrivi anche solo a pensare a una cosa del genere? Il giorno dopo, alle 2, vengono fatti uscire tutti i detenuti sotto il sole e messi in riga. Arrivano 4 camion con a rimorchio 4 container. I militari dividono il gruppo di detenuti in 4 gruppi da 100 persone per farli salire sui container. Ma non hanno idea, ma non è possibile che si salga tutti quanti dentro lì. Si devono ricredere. Vengono fatte entrare prima le donne e i bambini, ma è un errore perché vengono schiacciate in fondo. Ogni container ha 3 piccole feritoie da una parte per far entrare l'aria e la luce. Poca aria, poca luce. Dopo 10 minuti il container è pieno, ma ci sono altre 10 persone giù. E i militari dicono che devono salire anche loro. Non si sa se la faccia più spaventata è di loro che devono salire lì dentro o quelli dentro che vedono altre 10 persone che devono salire in uno spazio che non c'è. chiudono il container, restano fermi mezz'ora sotto il sole, la temperatura sale, poi alle 4 partono. La direzione è Al Brak, un'altra prigione nel mezzo della Libia, pieno deserto. Ci vogliono 20 ore di viaggio. Fanno tre soste di un quarto d'ora, ma i detenuti non possono scendere. Si arriva a temperature di 60 gradi. Alla seconda di queste due soste non ce la fanno più, gli uomini si mettono a picchiare contro la lamiera, urlano e glielo dicono ai militari che ci sono persone che stanno male, donne svenute. Allora i militari buttano dell'acqua sulla lamiera, ma si forma un'enorme nuvola di vapore caldissimo che entra anche nel container. Dopo non dirà più nulla nessuno di quelli nel container. Il container, un container, ma ce l'avete presente, no? È un parallelepipedo di metallo lungo 12 metri, largo 2 metri e mezzo. Ci sono anche quelli da 6 metri, lunghi 6 metri, però Daniel è stato in uno di quelli grandi. Di solito non trasportano persone in prigione i container, ma trasportano le cose. Il 90% delle cose che si muovono, le merci nel mondo, si muovono dentro ai container. Ci sono 200 milioni di container nel mondo, 3 milioni passano per il porto di Gioia Tauro vicino a Rosarno. E qua ci vuole una parentesi che non è proprio tanto una parentesi sul porto di Gioia Tauro. Allora, è stato progettato all'inizio degli anni 70, è dentro al pacchetto Colombo. Per chi non lo sapesse, Colombo è un politico democristiano. Adesso, manco a dirlo, è senatore a vita. Però è stato importante, è stato presidente del Consiglio dal 70 al 72. Cioè, non era certo un periodo proprio tranquillissimo, povero Colombo, però adesso lascia perdere Brigate Rosse, terrorismo. Nel 1970 si istituiscono le regioni italiane. E dici, ma come? Non c'erano già? Sì e no. La Costituzione del 48 prevede le regioni, ma ci vogliono 22 anni per istituirle formalmente, sempre perché noi italiani non siamo lenti, ma vogliamo fare le cose bene. Comunque non sarebbe un problema, istituiscono le regioni. Il problema c'è con la Calabria, perché bisogna scegliere il capoluogo di regione. Cosa scegli? Catanzaro, Reggio Calabria o Cosenza? È il gioco delle tre carte. La partita si fa a Roma e chi sta quello che vince, chi sta quello che perde, la partita finisce così. Il capoluogo di regione a Catanzaro, a Cosenza l'università e a Reggio Calabria si incazzano. Ma non ci credo, scusa. Solo che si incazzano tanto, fanno delle rivolte che durano mesi. Il povero Colombo è costretto a mandare i carri armati per tenere calmi i regini, ma niente. Allora gli viene l'illuminazione. Prometto infrastrutture, posti di lavoro. Se state avendo un déjà vu, non assecondatelo. Perciò pacchetto Colombo. Allora, costruzione del quinto centro siderurgico nazionale, poi Liquichimica di Saline, poi SIR, Lamezia Terme e Porto di Gioia Tauro. Infrastrutture e perciò posti di lavoro. Allora, per il quinto centro siderurgico vengono stanziati 1.300 miliardi di lire. Non verrà mai fatto, perché lo sapevano Colombo e compagnia, la siderurgia era in crisi mondiale. In Italia di centri siderurgici ne avevamo già 4, che cazzo te ne fai del quinto? Niente. Per la Liquichimica di Saline stanziati 360 miliardi, non entrò mai in funzione. Per la SIR di Lamezia, prima stanziati 40, poi 80, poi 230, non entrò mai in funzione. E poi il porto di Gioia Tauro, che però era stato costruito per il quinto centro siderurgico, che non c'è. E quindi? Che cazzo ce ne facciamo? Sai che c'è? Magari possiamo costruire una bella centrale Enel a carbone. Perfetto! Stanziano i soldi, neanche quello. E cosa? Nel 94 l'illuminazione. Sarà un porto di transshipment. Che cazzo è? Te lo spiego. Le gigantesche navi container oceaniche arrivano qua da noi, a Gioia Tauro, scaricano i container in navi più piccoline che porteranno i container in altri porti. Bello, bello, bello, bello. Ma si fa? Sì, stavolta si fa. E pensare che sono passati solo 19 anni dalla posa della prima pietra. Era il 25 aprile 1975, la liberazione, no? A tagliare il nastro per l'inaugurazione dei lavori c'è il ministro delle finanze, Giulio Andreotti, che il giorno stesso, guardate i casi, si fa fotografare in un hotel di Gioia Tauro con il mafioso Gioacchino Piromalli. Chissà perché era lì. Forse per un coffee break, un brunch, no? Naturalmente l'onorevole Andreotti non era a conoscenza dell'accordo tra le famiglie di 'Ndrangheta della Piana con i costruttori del porto. L'accordo è questo: i costruttori del porto dicono, se investiamo, che ne so, 100 miliardi, 3 li diamo all''Ndrangheta, e le famiglie di 'Ndrangheta, troppo poco, alzo l'8%. Va bene. E l'altro accordo, di cui sicuramente Andreotti non era affatto a conoscenza, tra le famiglie di 'Ndrangheta è la Concep. Cos'è la Concep? La Concep è la società di gestione del porto. Allora, la Concep dice alla 'Ndrangheta, per ogni container che passa per il porto vi diamo 1,50 euro. Si sono accontentati stavolta. Insomma, perché si dovrebbe pensare, tenere conto che la Concip guadagna da ogni container 3 euro. E quindi all''Ndrangheta dà la metà. E poi bisogna tener conto che ogni anno dal porto di Gioia Tauro passano 3 milioni di container. Però pensare che l''Ndrangheta sia sempre interessata a transshipment, tecnologia, queste cose qua, non rende giustizia. Ha una storia antica, fatta anche di fatica. Oddio, i tratti originali sono più o meno sempre quelli. La prima notizia, alla faccia dell'Unità d'Italia, è 1869. Annullate le elezioni amministrative a Reggio Calabria per infiltrazioni mafiose. 1897, forse il primo pentito di mafia, dice al magistrato che lui ha fatto parte di una società fondata da 3 cavalieri spagnoli di nome Osso, Mastrosso e Carcagnosso. Evidentemente l'attendibilità dei pentiti non è proprio una cosa nuova, ma cioè io me lo immagino il magistrato, come? Osso, Mastrosso e Carcagnosso? Sì. Così. Ma che cazzo sono? Ma sono 3 cavalieri spagnoli, fratelli per giunta. Ah, beh, se sono fratelli. Allora, siamo nella Spagna del 1600. Una nobildonna viene stuprata da un nobiluomo, che tanto nobiluomo non era. I 3 fratelli di lei, Osso, Mastrosso e Carcagnosso, vogliono vendicarsi. Vanno dal nobiluomo stupratore e lo uccidono. Però devono fuggire, sono costretti a fuggire dalla Spagna. Si imbarcano per riparare a Favignana, che è un'isola al largo delle coste trapanesi. Oh, è Favignana, però è un'isola strana, è piena di insenature, grotte, e proprio in uno di questi anfratti si nascondono Osso, Mastrosso e Carcagnosso. Ma non ci stanno poco, ci stanno 29 anni a fare, scrivono le leggi di una società segreta. 29 anni. Quando hanno finito, Osso rimane in Sicilia e, votandosi a San Giorgio, fonda Cosa Nostra. Mastrosso invece se ne va in campagna e, votandosi a Maronna, fonda La Camorra. E Carcagnosso se ne va in Calabria e, votandosi a San Michele Arcangelo, che in una mano c'ha una spada e nell'altra una bilancia, fonda l''Ndrangheta. È una leggenda, eh. non che poi magari sai com'è, si sa mai, però la ritroveremo. Adesso andiamo a casa di Bellocco. È nato Antonio Bellocco e c'è il fiocco azzurro alla porta. Il papà Giuseppe si avvicina alla culla dove c'è il neonato e posa sulla culla un coltello e una grande chiave, di quella di una volta. È un test. Se il bambino tocca il coltello diventerà un uomo d'onore. Se invece tocca la chiave diventerà uno sbirro, un infame. Il piccolissimo Antonio nella culla si muove piano e tocca il coltello. Ah, il papà Giuseppe sorride. Oh, il fatto che il coltello venga sempre messo un po' più vicino della chiave non c'entra. Cioè, è un trucco. Però è necessario, perché il destino di una famiglia non si può lasciarlo decidere al caso. Ognuno è artefice del proprio destino. Poi il papà Giuseppe tira giù il vestitino ad Antonio e gli sputa sul culo. Ricapitoliamo. Tu stai 9 mesi al caldo, coccolato, cullato e nutrito. Poi improvvisamente esci da un buco strettissimo al freddo con l'ossigeno che ti brucia la pelle, la gola, il naso, poi ti mettono delle cose addosso che chiamano vestiti, poi ti mettono su una culla e vicino un coltello che devi toccare perché devi, e poi ti spogliano e ti sputano sul culo. Non è un bell'inizio, eh? Cioè, se la vita inizia così, poi Antonio non dice niente perché non può dire niente, è neonato e comunque non potrebbe dire niente perché è così che si fa. Poi Antonio cresce bene, a 16 anni già gli danno i primi incarichi, tipo deve portare dei messaggi che i mafiosi non possono affidare al telefono per via delle intercettazioni, e qua qualcuno dovrebbe imparare. Oppure gli danno da custodire delle armi, così, per responsabilizzare il ragazzo. Poi a 18 anni il battesimo. L'appuntamento è in una casetta fuori Rosarno di sera, e il capo lo presenta a altri picciotti affiliati di grado superiore e poi con un cenno dà inizio alla cerimonia. Buon vespero, saggi compagni. Buon vespero. Siete comodi per battezzare questo locale? Comodissimi. A nome dei nostri vecchi antenati, i tre cavalieri spagnoli, Osso, Mastrosso e Carcagnosso, battezzo questo locale. Se prima lo conoscevo per un locale che bazzicavano sbirri e infami, da ora in poi lo riconosco per un luogo santo e inviolabile, dove può formare e sformare questo onorato corpo di società. Siamo qui riuniti per affiliare un contrasto onorato che si è distinto per virtù e umiltà. Se qualcuno dei presenti ha delle obiezioni, le faccia adesso oppure taccia per sempre. Introducete il contrasto onorato. Chi siete e che volete? Mi chiamo Antonio Bellocco e cerco sangue e onore. Sangue per chi? Per gli infami. Onore per chi? Per l'onorata società. Siete a conoscenza delle nostre regole? Sono a conoscenza. Prima della famiglia, dei genitori, delle sorelle e dei fratelli, viene l'interesse e l'onore della società. Essa, da questo momento, è la vostra famiglia. E se commetterete infamità, sarete punito con la morte. Questo giuramento può essere infranto solo con la morte. Siete disposto a questo? Lo giurate? Lo giuro. Nel nome dell'Arcangelo Gabriele e della Sacra Corona dell'Onorata Società, da questo momento la mia famiglia siete voi. Sarò sempre fedele e solo la morte potrà allontanarmi. Mi rimetto a voi per macchie d'onore, tragedie o infamità, a mio carico e a discarico di tutta la società. Se farò sbaglio, verrò punito con la morte. Se prima vi conoscevo come un contrasto onorato, da ora vi riconosco come picciotto d'onore. E poi, dopo le strette di mano e i baci, il capo conclude. Umiltà bella, che mi hai coperto di rose e di fiori e mi hai portato all'isola di Favignana e mi hai insegnato i primi passi. Italia, Germania e Sicilia fecero una grande guerra nella quale si sparse tanto sangue per l'onore della società, e questo sangue, raccolto in una palla, va girando per tutto il mondo, fredda come il ghiaccio, calda come il fuoco, sottile come la seta. Giuriamo, bei compagni, che se qualcuno la tradirà, la pagherà con 5 o 6 colpi di pugnale nel petto. Calice d'argento, ostia consacrata, con parole d'umiltà sformo la società. Grazie, rispondono tutti. Grazie, risponde Antonio. Noi però dobbiamo tornare alla prigione di Al-Brak, perché Daniel riesce a tornare a Tripoli. Non vi dico come, perché sennò non finiamo più. Arriva lì, arriva alla spiaggia in cui troverà la nave per partire e arrivare in Italia, solo che la nave che trova non è una nave, è una barca piccola. Ci devono salire in 30. E guarda che non puoi non chiedertelo, non puoi non chiederti il fatto se tu sali su quella barca forse muori. E allora che cosa fai? Però li fanno salire in fretta, perché può arrivare la polizia da un momento all'altro, ma mentre sale, Daniel pensa che ha 3 possibilità. La prima, non salire su quella barca e tornare da dove è venuto, a casa sua, in Nigeria, solo che dovrebbe riattraversare il deserto, e la prima possibilità viene scartata. La seconda possibilità è non salire su quella barca e tornarsene a Tripoli, solo che magari lì poi viene arrestato di nuovo, riportato in prigione in compagnia dei poliziotti libici. Anche questa possibilità è scartata. La terza e ultima è salire su quella barca. E Daniel pensa, sì, ma potrei morire. Sì, ma si può morire in molti modi, anche stupidi, inciampando, colpiti da un fulmine, strozzati da un'oliva, annegati in una piscina alta così. Oh, il Mediterraneo non è una piscina. Però Daniel pensa, Dio farà la sua volontà, la barca non affonderà. Adesso siamo con lui nella barca in mezzo al Mediterraneo, è notte, c'è solo la luce artificiale della barca e sopra un cielo che solo chi è stato in mare aperto di notte o in montagna sa cos'è. E allora sarà il rumore delle onde e i miliardi di stelle che lo guardano. Daniel dice, attimo, fermati. Sei bello. Credo che nessuno abbia mai sentito citare il Faust di Goethe in mezzo al Mediterraneo. Però non c'è da stupirsi, perché Daniel le cose che gli piacciono se le impara a memoria. E poi arriva l'alba che non sveglia nessuno, perché nessuno ha dormito, sei stanco e fa freddo, allora ti stropicci gli occhi, comunque cerchi di stiracchiarti un po', e poi Daniel si mette a ridere perché qualcuno tira fuori dei telefonini per fare delle riprese, e allora si mettono a ridere tutti quanti, fanno il segno così della vittoria con la mano, e poi qualcuno tira fuori dei rasoi per farsi la barba. Perché in Italia bisogna arrivare belli e puliti. Solo che prova tu a farti la barba su una barca che dondola nel Mediterraneo, non ce la fai. Perciò ci si ferma 5 minuti, il motore non lo si spegne, perché non si sa mai, e a turno si sbarba il proprio vicino di barca. Ma Daniel e gli altri non sanno che cos'è l'Italia nel 2006. Che siamo nel 2006, non sanno soprattutto cos'è stata l'Italia prima del 2006. Vuoi che sappiano di pentapartito, prima repubblica, brigate rosse? Ma no, ma non sanno neanche dov'è la Calabria, Rosarno, figuriamoci, non sanno di 'Ndrangheta, non sanno niente, non sanno che a Rosarno sono proprio i migranti come loro che fanno la raccolta delle arance. Non sanno che la storia d'Italia è un gigantesco, nero, mortale déjà vu. Perché il 10 settembre 1990 iniziano a sparare, la 'Ndrangheta spara contro i migranti, li sfrutta con la manodopera e poi gli spara. Perché? Perché? Per almeno due motivi. Il primo è che tutti in Calabria devono capire chi comanda, anche gli stranieri. E poi il secondo è che gli stranieri, quando servono, possono restare, ma quando non servono più, se ne devono andare. Il primo gambizzato è Mohammed. 1990, nel 91 un altro ragazzo africano gambizzato a Rosarno, nel 92 un ferito e due uccisi. La Lega Nord ha l'8,5% in Parlamento nel 92. Non sanno che nel 94 compare in televisione l'imprenditore Silvio Berlusconi e dice: l'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Un altro ragazzo ferito. Nel 96 un'altra sparatoria, nel 98 altri tre ragazzi feriti e due morti. A questo punto gli africani dicono basta. E però lo dicono nella maniera più poetica, civile e gentile possibile, cioè scrivono una lettera al sindaco di Rosarno, perché per loro è così che si fa. E sono molto lucidi nella lettera. Per paura la brava gente rifiuta di affittarci le loro case. Quindi siamo obbligati a dormire in modo disumano nei ghetti, senza acqua e senza elettricità. E poi parlano della violenza. Siamo venuti solamente e unicamente per la raccolta degli agrumi. Ma siamo vittime, da quando siamo arrivati a Rosarno, di una violenza senza precedenti. Siamo continuamente vittime di aggressioni inimmaginabili da parte di giovani ignoranti e armati. Dicono così. Ignoranti e armati. Ma la lettera diretta al sindaco non viene cestinata o archiviata come ci si potrebbe immaginare, no, la discutono in consiglio comunale. Ma non si fermano a discutere, approvano un ordine del giorno in cui scrivono: la situazione già tanto grave può aggravarsi perché il governo nazionale e regionale non hanno risposto. Lo scrivono nero su bianco, ce lo dobbiamo ricordare che la situazione può aggravarsi. Ma poi fanno anche questo: un gruppo di contatto per sollecitare le autorità statali, poi fanno dei corsi di lingue per stranieri, poi mandano nelle scuole la lettera dei migranti per sensibilizzare gli studenti e poi avviano una mensa. Si danno da fare, toccano quattro cose importanti: lo Stato, la scuola, la lingua e il cibo. Viene anche organizzata una manifestazione dal titolo Immigrazione e Solidarietà. C'è anche Don Ciotti di Libera, l'associazione contro le mafie, che parla. E poi arriva una lettera da Roma. Mica da un politico, ma quale politico? È l'ambasciatore del Senegal in Italia che vuole ringraziare il sindaco per la sua vicinanza ai connazionali che hanno subito le violenze. Sembra incredibile, sembra una favola. Perché le violenze hanno provocato la protesta. La protesta gentile degli africani viene capita e dalla comprensione si arriva al cambiamento. Sembra incredibile, una favola. Ricapitoliamo: in 10 anni, 8 africani feriti e 4 uccisi a Rosarno, sempre durante la raccolta delle arance. L'Italia in questi 10 anni è cambiata, eh? Sì, è cambiata. Prima non c'erano le leggi per l'immigrazione, adesso ci sono. E ci sono più immigrati, c'è più razzismo e l'Italia si stringe nella paura. Anzi no, mi correggo, viene spinta nella paura. Perché, per esempio, la stampa non parla mai di razzismo quando parla di stranieri. La stampa è stata la spalla dove si è sempre potuta appoggiare la politica razzista dei nostri governi, sia di destra che di sinistra. C'è una lettera che viene pubblicata da Repubblica che secondo me chiarisce molte cose. È una lettera di Favur Yamu. Lui parla di sé in terza persona nella lettera. Favur Yamu alla stazione di Parma tenta di vidimare il biglietto, ma la macchinetta non funziona. Chi va con i treni sa che capita spesso. Si rivolge a un ferroviere che lo tranquillizza, marca il biglietto con la penna e lo invita a salire perché il biglietto di andata e ritorno è già stato vidimato. Al controllo il capotreno, alla spiegazione di Favur Yamu, esordisce: è sempre la solita balla di voi negri, paga la multa o scendi. Favuriamo rifiuta entrambe le soluzioni e da quel momento decide di non rispondere più alle proteste del controllore. Alla stazione di Bologna le urla: dov'è quel negro? Dov'è quel negro? Sono udibili in tutto il vagone. Precedono l'arrivo di 4 poliziotti che lo raggiungono, senza ascoltare le sue spiegazioni, lo afferrano, lo spingono giù frantumandogli una mano. All'ufficio della Polfer la scoperta. Sui suoi documenti si legge: cittadinanza italiana, dipendente della provincia di Firenze, Dipartimento Ambiente. Allora il trattamento cambia e Favuriamo riacquista i suoi diritti. Dopo le scuse viene fornito di un nuovo documento di viaggio a costo zero e invitato a prendere il successivo Intercity. Iamu è stato operato alla mano sinistra all'ospedale di Bologna, porterà il gesso per 29 giorni e sarà assente dal lavoro per un periodo ancora più lungo. Ma la cosa che secondo me rende veramente conto della situazione italiana non è tanto la lettera, che comunque, ma è la risposta. La risposta è della curatrice dell'angolo della posta di Repubblica, Barbara Palombelli. Mi temo in medesimo. Quando leggo storie come queste, devo confessare di provare un profondissimo disagio. Da sempre e sempre di più soffro i razzismi sulla mia pelle. Da 4 anni li vivo anche sulla pelle nera, ma lui dice marroncina, di un figlio amatissimo. Spero che la mano frantumata di Favuriamo non vi lasci indifferenti, che scuota anche le coscienze un po' addormentate di chi vorrebbe frantumare la mano del lavavetri. A proposito, se ci fosse maggior controllo ai semafori e maggior rigore con i clandestini e i delinquenti immigrati, diventeremmo tutti molto più tolleranti. Forse non lo voleva dire così, ma è scritto così. Questa lettera è del 97. 9 anni prima che Daniel arrivi in Italia. Ma Daniel ci arriva in Italia? Ha voglia se ci arriva. Oh, lui non la vede per prima, ma sente l'urlo, si gira, la vedono tutti. La motovedetta della Guardia di Finanza italiana e tutti gridare Italia, Italia, Italia! Iniziano a stringersi forte, a sorridere. Lo so, non è come la grande statua della libertà americana, ma comunque fa la sua porca figura la nostra motovedetta. E poi i finanzieri quando si avvicinano non ce la fanno a non essere contagiati dai sorrisi, iniziano a dare le prime bottiglie di acqua, le coperte. Daniel non sa che verrà portato in Italia, a Lampedusa. Lì ci rimarrà pochi giorni e poi assieme agli altri verrà portato sempre in Italia, in Sicilia, e lì gli verrà dato un foglio in cui c'è scritto che lui non può restare in Italia. Daniel lo rilegge il foglio, c'è scritto proprio così, però pensa che solo un pazzo dopo il viaggio che ha fatto potrebbe pensare di tornare indietro. E siccome lui pazzo non è, prende il primo treno e la prima possibilità di lavoro. Dice che a Rosarno c'è bisogno di gente che raccolga le arance, perciò si mette a lavorare lì, a novembre 2006. Appena arrivato, dopo una settimana, la notizia è che hanno investito con la macchina un africano e poi l'hanno aggredito. Ma gli italiani erano gentili, no? Boh, penso sarà un caso, dai, quello lì avrà fatto sicuramente qualcosa che non doveva fare. Nel 2007 un'altra sparatoria, nel 2008 viene trovato un ragazzo impiccato e vengono uccisi altri 2. A questo punto gli africani dicono basta una seconda volta. Ma stavolta niente lettere al sindaco, niente protesta muta, ma vanno nelle strade di Rosarno. E i rosarnesi non capiscono cosa sta succedendo perché la scena è surreale. Ci sono centinaia di africani che cantano e ballano per le strade di Rosarno e poi sollevano cartelli con scritto "Straniero non è animale, stop killing blacks, straniero non è animale, stop killing blacks". Ma questi da dove vengono fuori? Ma chi gli dai il permesso di fare una manifestazione di bloccare il traffico? Ma poi che cazzo vuol dire stop killing blacks? Il corteo degli africani punta verso il municipio, ma stavolta non c'è il sindaco ad ascoltare le loro proteste, c'è un commissario prefettizio, perché dal 2008 il comune di Rosarno è sciolto per infiltrazioni mafiose. Ma dai, che strano! Io me lo immagino nella caserma dei carabinieri. Cos'è successo? Perché gli africani vogliono parlare, non si limitano a protestare. Il giorno stesso denunciano ai carabinieri le persone che hanno aggredito, descrivono chi sono, dove è avvenuta l'aggressione, il tipo di macchina che avevano gli aggressori. E io me li immagino, due africani nella caserma che dettano in inglese il verbale all'appuntato dei carabinieri, e fuori centinaia di migranti che cantano canzoni che nessuno ha mai sentito, e dice: c'è il problema della lingua. Ma ci credo che c'è il problema della lingua. Allora, gli africani parlano il loro dialetto e l'inglese e o il francese, l'appuntato il suo dialetto e o l'italiano. Cioè, Steven si lamenta, ma ha ragione a lamentarsi, dice: com'è possibile che non ci sia nessuno che parla inglese? Com'è possibile che in Europa nel 2008 non c'è nessuno che parla inglese? L'appuntato è toccato nell'intimo, perché lui gliel'aveva detto tante volte alla moglie che prima o poi l'inglese lo voleva imparare, perché prima o poi, guarda, che l'inglese serve sempre, sai, serve, e guarda te, questa è l'occasione che nessuno si sarebbe mai aspettato, l'occasione è che gli africani di Rosarno fanno quello che in Calabria, in Italia, nessuno fa da un sacco di tempo. Cioè, fanno una manifestazione antimafia spontanea, e di più, fanno una denuncia pubblica e precisa di mafiosi. Subito viene diramata un'ordinanza di custodia cautelare per Andrea Fortugno. Una settimana dopo il giudice firma: arrestato, accusa, tentato quadruplice omicidio e rapina aggravata. Adesso Daniel e gli altri suoi compagni sono contenti perché hanno fatto qualcosa, ci hanno messo la faccia. Per le stesse motivazioni Antonio è incazzato, si fanno delle riunioni molto importanti perché Rosarno deve continuare a essere una città di cui non parla nessuno. Sui muri dell'ex fabbrica dove dormono gli africani rimane una scritta nera: avoid shooting blacks, vietato sparare ai neri. Ignoranti di Roma la droga, imperio della legge, che attende la droga. Cazzo, questa è la Lega che vince, Berlusca, coi tubi, e Bossi, e Lega, sono i suoi carieri. Davide, che stai sfogliando il giornale, hai trovato qualche notizia interessante? La Moratti pianta 1600 nuovi alberi da far crescere in città, pensa. Che brava! Brava, eh? Sì, polmone verde poi. No, in corso Buenos Aires? Sì, così rende più verde Milano. Che serve? Sì. Sono contenti quelli dei verdi, dei ambientalisti, WWF, Lega Ambiente. Sì, perché così diventa più verde e meno marrone, perché ci sono tanti marocchini adesso. Ce ne sono proprio. Sì. Anche la cacca è marrone. La porta è sempre aperta, tornino giù nel deserto a parlare con i cammelli o nella giungla con le scimmie. Io sono sicuro della presenza di uno più clandestino di una casa, un appartamento. Sì. Per provvedere a farli arrestare, come devo fare? Di chiamare la polizia. A Milano la Polizia di Stato ha fatto un'operazione in zona di Piazza Selinunte sequestrando una trentina di appartamenti settimana scorsa. Noi, la Padania, bianca e cristiana, bianca e cristiana! Pensate se i nostri nonni avessero raccontato che noi ci lasciamo togliere i canti natalizi da una banda di cornuti islamici di merda! La Lega è vero, la forza politica è la radice più cristiana che c'è. E quindi qualche volta è bene parlare. Tolleranza zero! Sotto zero! Sempre te, intolleranza! Non voglio sentir parlare di buonismo o di perdono. Se mi danno uno schiaffo, io gli spacco il muro! Non siamo Cartagine di mattina o Mediterranea! Noi, la Padania, bianca e cristiana! Bianca e cristiana! Fa disco. discutere l'ennesima provocazione del leghista Roberto Calderoli che, aderendo allo sciopero della pasta proclamato oggi, non solo ha annunciato che mangerà maiale per far dispetto agli islamici che seguono il Ramadan, ma ha anche detto che metterà se stesso il suo maiale a disposizione per una passeggiata a Bologna, sul terreno dove il comune intende costruire una moschea. Voglio la pulizia dalle strade di tutte queste vie che distruggono il nostro paese. Si stanno distruggendo. Il problema è che si lascia fare. Siamo noi al governo, Berlusconi, noi abbiamo una maggioranza sconvolgente che non c'è mai stata. Ma Cristo, non si può fare le espulsioni di massa come hanno fatto in Germania. La Lega non è razzista. I leghisti non sono razzisti. Non possono esserlo. Nessuno può esserlo, perché le razze umane non esistono. C'è un libro molto bello di Gian Antonio Stella, Negri, Frocid, Dei e Company, che fornisce degli esempi molto interessanti. Per esempio, gli scienziati, quelli che ci dovrebbero dire la verità, non sono mai stati d'accordo neanche sul numero di queste fantomatiche razze. Chi dice 7, chi dice 19, cioè addirittura un avvocato francese del 700 che riesce a contare 128 varianti del meticcio bianco-nero. Alla faccia di Michael Jackson, 300 anni prima. Allora, se le razze non esistono, cerchiamo di capire che cos'è che ci dà così tanto fastidio dell'altro, lo straniero, il diverso, l'extracomunitario, come direbbero simpaticamente alcuni il negro di merda. C'è uno dei nostri cinque sensi che è particolare, forse è il più primitivo, è l'olfatto. L'olfatto è il senso che dà la possibilità al neonato di riconoscere la madre. Noi, il nostro odore non lo sentiamo di solito. Cioè, lo sentiamo quando diventa un po' alterato, chi più chi meno. Però quando ci laviamo, poi il nostro odore qualcuno lo sente. E cioè, lo sentono gli altri. L'ex sindaco di Lampedusa ha dichiarato a Repubblica: non vorrei essere razzista, ma la carne dei negri puzza anche quando è lavata, figuriamoci nei lager a cielo aperto di Lampedusa. Però sì, sarebbe interessante far sapere a questa persona e anche agli altri che per gli africani, noi europei bianchi, puzziamo di cadavere. O nel migliore dei casi di cuoio scamosciato. Nel Nord Africa gli europei, i bianchi, vengono chiamati quelli che puzzano. Ma non è solo una lotta Africa contro Europa, no? Cioè, per il filosofo Linneo, scienziato, i giapponesi puzzano, e per i giapponesi gli europei puzzano di formaggio, per gli arabi i cristiani puzzavano, per i cristiani gli arabi puzzavano, anche gli ebrei non si salvano, perché ci sono parecchi storici che sono pronti a giurare che gli ebrei emanano sempre cattivo odore. Non si salva nessuno. Però c'è un altro senso che forse ha fatto un po' più danni dell'olfatto, e cioè la vista. Questo è un articolo scientifico apparso nel 1908 sulla rivista La Nature. Il titolo è: si possono sbiancare i negri? La firma non è appunto Michael Jackson, ma un certo Victor Fulber. La questione si presta a scherzi di dubbio gusto e in qualche modo datato, che promettiamo di evitare. Ma senz'altro ha preoccupato da molto tempo gli spiriti seri, specie negli Stati Uniti, dove i pregiudizi di colore hanno dato luogo a una crisi sociale. Non si può negare che la soluzione del color problem sarebbe semplice se fosse possibile sbiancare i neri. Certamente resterebbe da lisciare i loro capelli crespi e soprattutto ci sarebbe da aggiungere qualche cellula nervosa al loro cervello, notoriamente meno pesante di quello della razza rivale. Ma il conduttore di un tram esiterebbe a far scendere dal mezzo un passeggero la cui epidermide avesse subito uno sbiancamento apprezzabile. A partire dalla decima seduta di esposizione ai raggi X, l'incarnato degli africani puro sangue vira verso il marrone chiaro. Prolungando il trattamento si ottiene un incarnato olivastro. Infine, moltiplicando le esposizioni fino al limite permesso dalla forza del soggetto, si riesce a decolorare completamente la pelle, raggiungendo una tinta che a detta di testimoni è un bianco malaticcio. Questo succedeva ai primi del Novecento. Adesso, migliaia di donne in Asia e Africa hanno la pelle completamente devastata da crani sbiancanti. Le producono anche multinazionali come Nivea, L'Oreal, Avon, The Body Shop. Il giro di soldi è di 450 milioni di dollari l'anno. Loro, in qualche modo, vogliono assomigliare a noi. E noi? Ma noi compriamo gel super abbronzante Expertan, Body Kiss and Protection con aloe vera e vitamina E, bronzao, crema solare, gambe e glutei, anticellulite da sodante, lozione acceleratore abbronzante UVA Extreme, Sole Sport Skin Dry, fissatore da bronzatura dopo sole, Inca Rose Maxi Bronze, guanto autoabbronzante corpo. Che cazzo è? Vogliamo avere la pelle nera, come diceva il caro Nino Ferrer. E siccome noi vogliamo avere la pelle nera, quindi vuol dire che non siamo razzisti. No? Rovate, Brescia. Con un'ordinanza il sindaco leghista impone ai non cristiani di tenersi lontani almeno 15 metri dai luoghi di culto cattolici. L'ordinanza sarà poi sospesa in quanto in antitesi con il buon senso. Verona. Un uomo lancia del liquido infiammabile addosso a un giovane magrebino che corteggia da tempo sua figlia, dandogli fuoco. Treviso. Il leghista Gentilini afferma: dovremmo far indossare costumi da leprotto agli extracomunitari, così le doppiette dei cacciatori potrebbero esercitarsi e pum pum pam. Imputato per aver pronunciato questa frase, viene assolto dall'accusa di istigazione all'odio razziale perché il fatto non sussiste. Firenze. Mentre passeggia in pieno centro con un'amica, una 22enne nigeriana, impiegata presso un call center, viene incrociata da un gruppo di militari di leva. Uno di questi le fa delle avance insistenti e le tocca il seno. La ragazza adirata si ribella, viene spintonata, fatta cadere, si frattura l'omero e riporta diverse contusioni, presa a calci e insultata pesantemente come negra e quindi prostituta. Napoli. Genè, una donna somala di 32 anni, giunge al pronto soccorso dell'ospedale di Napoli in stato confusionale e con due gravi e vistose ferite al sopracciglio e alla nuca. Dimessa frettolosamente dopo una sommaria medicazione, per due notti e un giorno la donna resta seduta su una sedia del pronto soccorso, abbandonata da infermieri e medici, finché non comincia a vomitare sangue. Solo allora, ricoverata d'urgenza, muore nella notte. Genè era già nota per essere stata vittima di stupro nel 96 da parte di 27 giovani per bene di Castellammare che l'avevano sequestrata in un casolare per tre giorni. Di questi casi ne ho centinaia. Noi comunque non siamo razzisti. Non siamo razzisti. Solo non vogliamo che gli stranieri vengano da noi a delinquere. Perché loro vengono per questo, ce lo dicono, quindi è vero. Quello che non ci dicono è che in 20 anni, dal 90 a oggi, gli immigrati sono cresciuti del 420% e invece i reati sono diminuiti. Come si spiega questo? Ah no, ma guarda, non è questo il punto. Il punto è: aiutiamoli in casa loro. È giusto, siamo una nazione forte, abbiamo le risorse per aiutarli in casa loro. Non è giusto che vengano a cercare ricchezza e salute da noi. La ricchezza e la salute devono averla lì, nella loro terra. Sarà per questo allora che il 50% dei rifiuti tossici dell'Europa vanno in Africa. Sarà per questo. Dobbiamo aiutarli in casa loro a prendere la nostra merda senza che protestino. Sono tutte le navi che partono dall'Europa stracolme di rifiuti tossici e le scaricano lì. Oh, la 'ndrangheta è sempre più furba. Ha pensato, scusa, ma perché le navi, invece di farle arrivare in Africa, che si spende un sacco di soldi, non le affondiamo qua da noi. Certo, certo. Il pentito Forni dice che è al corrente di almeno 30 navi affondate al largo delle coste calabresi, siciliane, ma anche tipo al largo del porto di Livorno o di La Spezia. Dice che è una pratica facile e abituale. Ma non è, guarda, non è che sono tutti così gli indranghettisti, no? C'è qualcuno che ha degli scrupoli. In un'intercettazione c'è un boss che dice all'altro: ma guarda, basta che aspettiamo il mare giusto e poi la affondiamo, è semplice. L'altro però non ce la fa a reprimere lo scrupolo e la domanda gli fa: ma è il mare? E l'altro gli risponde: ma che te ne fotte del mare? Con tutti i soldi che fai, il mare te lo vai a cercare da un'altra parte. È così, i soldi dell'Andrangheta. L'Andrangheta fattura, tra virgolette, 44 miliardi di euro l'anno. È tanto? È poco? Non so. Un'altra azienda legale italiana, la Telecom Italia, fattura 30 miliardi di euro. Solo che l'Andrangheta non è che vende telecomunicazioni. La cosa che vende più comunemente è la cocaina, ma non perché ha una predilezione per quello, ma perché è uno degli affari più redditizi del mondo. Esempio, l'Andrangheta compra un chilo di cocaina. Quanto lo paga? Lo dico io, 1500 euro. Lo vende, guadagna 225.000 euro. Non è male, no? Non ci sono solo i soldi, però c'è anche il potere. E Nicola Gratteri, il procuratore di Reggio Calabria, dice: i mafiosi perseguono il potere, ma gran parte di questo potere glielo danno gli altri. E chi sono gli altri? Sono quelli che hanno spremuto l'Italia fino a quasi grattare la buccia. Sono quelli che si sono fatti spremere assieme all'Italia senza dire niente. Sono quelli che hanno guardato tutto con indifferenza, perché tanto non li toccava, che fossero magari le leggi contro i migranti, perché tanto non li toccavano, o che fosse la mafia, perché tanto non mi tocca. C'è una frase sempre di Gratteri che forse non farebbe tanto piacere a una persona come Bruno Vespa. L'opinione pubblica si scandalizza per omicidi tra fidanzati, uxoricidi, o per l'extracomunitario che ubriaco al volante travolge un passante. Ma forse bisognerebbe rendersi conto di cosa vuol dire tenere soggiogate decine di migliaia di persone, paesi interi, sapere che esistono città dove l'Andrangheta controlla anche il respiro, il battito cardiaco degli abitanti. Come Rosarno. Allora, a Rosarno, e arriviamo al 2010, ci sono circa 2.000 africani che raccolgono le arance. Ma in cosa consiste il lavoro? È semplice. Ci si alza. Alle 6:30 di mattina si va dall'ex fabbrica dove dormono a Rosarno, poi si aspetta su Via Nazionale che arrivi il caporale che ti porta gli agrumeti. Lì raccogli le arance e le metti nelle cassette. Ogni cassetta riempita pesa circa 20 kg. Si riescono a riempire 20, 25, 30 cassette al giorno. Poi a sera ti pagano 20-25 euro, se ti pagano, perché a volte non pagano e a volte non lavori, non c'è il contratto, dice, per forza, sono tutti immigrati clandestini, irregolari, non è vero. La maggior parte di loro ha il permesso di soggiorno o lo status di rifugiato politico. Negli agrumeti di Rosarno polizia, carabinieri, guardia di finanza non si vedono, neanche i sindacati, figuriamoci, sindacati, CGL, CISL, UIL, chi li ha mai visti? O c'è qualcuno che li aiuta, sono mica sempre da soli, ci sono i ragazzi dell'osservatorio migranti, poi ci sono Medici Senza Frontiere che non sono belli come quelli di Grey's Anatomy, ma il lavoro lo fanno lo stesso, ve lo assicuro, e poi c'è la Caritas, insomma ci sono sempre i soliti. Però c'è un gruppo che tu non ti aspetteresti mai, è l'Ordine delle Vedove Cristiane. Te l'immagini? fanno paura. Queste vecchie oscure, col cappuccio nero, un enorme crocifisso che tengono con entrambe le mani, che vagano, aleggiano per le campagne di Rosarno di notte. Cantano anche magari litanie oscure, non sono così. A capo di quest'ordine c'è Norina Ventre, 83 anni, alta 1,60 m, un po' robusta, capelli corti come le portano le donne anziane e soprattutto biondi. Ma non un biondo qualunque, biondo Marilyn, che non puoi pensare sia il colore naturale dei capelli di Rosina, di Norina. Allora, Norina è per tutti i rosarnesi Norina, invece per tutti gli africani è Mamma Africa. Perché Norina Ventre, o Mamma Africa, da 20 anni ogni domenica, giorno del Signore, assieme alle sue volontarie, prepara il pranzo domenicale per circa 200 africani. E guarda che glielo dice sempre Daniel, glielo dice Mamma Africa, guarda, tu c'hai sicuramente un posto prenotato in paradiso, ma proprio con nome e cognome, riservato Mamma Africa, e ci sarà sempre qualcuno che ti preparerà da mangiare, la mangerai pasta al forno fino all'eternità. Daniel, può essere anche la pasta al forno fatta da Dio, sarà buonissima, ma mangiarla fino all'eternità no. Il 7 gennaio 2010 Aiva e Steven escono dal supermercato. Oggi non lavorano, quindi ne approfittano per lavarsi i vestiti e comprare le cose. A mezzogiorno e mezza escono, si incamminano verso l'ex fabbrica e a un certo punto sentono un motorino. Si fermano, si girano e aspettano che il motorino passi. Sopra il motorino ci sono due ragazzi giovanissimi che mentre passano li guardano, sorridono e gli fanno così, però poi passano, niente botte. Aiva e Steven si riprendono a camminare, poi dopo un po' si guardano, sorridono, come a dire, che fifoni, dai, non era niente. Dopo 3 minuti arriva una macchina, non è un'utilitaria, è un SUV di quelli grandi, scuri, e ai livelli non hanno il tempo né di fermarsi o di pensare o di correre via con i sacchetti della spesa, perché la macchina arriva velocemente, si ferma proprio davanti a loro, scendono i finestrini, spuntano 2 fucili ad aria compressa che mirano verso i genitali, sparano e si apre una rosa di 50 pallini da caccia che entra nella carne e poi la macchina se ne va. E da qui in poi è un film con l'audio abbassato, perché Aiva e Steven si guardano a occhi aperti per un tempo non so quanto, e poi si guardano attorno come per cercare aiuto. Lo farei anch'io, lo faremmo tutti, nessuna macchina in giro, ma 3 africani a meno di 1 chilometro che si sono messi a correre, vuol dire che hanno sentito gli spari. Aiva si tocca la ferita, gli viene quasi da svenire. Arrivano i ragazzi, 2 stanno con i feriti, il terzo chiama il 118, statale 18, Rosarno, siamo vicini all'Opera Sila, dall'altra parte del telefono, veniamo! E poi via a mandare sms, a fare chiamate agli amici, a quelli che conoscono per aiutarli, lo farei anch'io, lo faremo tutti. Arriva l'ambulanza, dopo un quarto d'ora, caricano i 2 ragazzi feriti e gli altri 3 africani corrono verso l'Opera Sila. Arriva un messaggio a Daniel, lui sta lavorando. Il messaggio dice: feriti altri 2, ci vediamo all'Opera Sila e poi tutti insieme a Rosarno. È un pugno nello stomaco. Daniel rimette in tasca il cellulare, inizia a correre col caporale che gli dice: dove vai Daniel? Vieni qua, dove cazzo vai? Non hai finito il lavoro, se non torni ti ammazzo! Sono le 5 del pomeriggio, il sole è già andato giù, è buio, 500 africani vanno nelle strade di Rosarno e stavolta i rosarnesi si accorgono che non è come 2 anni fa, perché sì, ci sono i canti e balli, ma ci sono anche mazze e bastoni. Le informazioni girano veloci, come da cellulare a cellulare Wind degli africani, così da teleconfissa 113. Pronta polizia, dovete venire, ci sono gli africani che stanno sfasciando tutto, sfasciano tutto. Signora, si calmi, mi dica il nome e cognome, l'indirizzo preciso. Ma allora non avete capito, gli immigrati c'hanno i bastoni, stanno sfasciando tutto, dovete venire immediatamente. I rosarnesi hanno paura, L'avrei anch'io, l'avremmo tutti, perché negli occhi degli africani c'è una cosa che non si può equivocare, ha solo un nome, rabbia, e produce delle conseguenze. Perché gli africani iniziano a rovesciare i cassonetti, a spaccare con le mazze tutte le macchine parcheggiate, le vetrine, danno fuoco ai cassonetti e gli sarnesi riparano in casa perché l'onda è troppo forte. Arriva la polizia, in assetto antisommossa, ma non fa paura a nessuno perché la rabbia non crede a nulla. Anzi, gli africani iniziano a manifestare con più forza, gli lanciano delle pietre. A sera, inoltrata, ci sono rosarnesi e giornalisti che vedono che la polizia porta via 10 africani e poi tutti a casa. Rosarnesi, polizia e africani. Il sole sorge ancora l'8 gennaio e rosarnesi e polizia pensano che sia tutto finito. E invece no, perché gli africani continuano. Antonio Bellocco questo non se l'aspettava. Adesso bisogna dare una risposta. Chi di Rosarno ieri è stato in casa, adesso deve uscire. L'Andrangheta dà assenso a una risposta di Rosarno agli africani. Dice c'è la polizia, chi se ne frega? C'è l'Andrangheta dietro. Quindi va bene, iniziano a formare delle ronde armate anche loro con mazze, bastoni e pistole. Poi si formano dei comitati contro la violenza dei migranti. Daniel l'8 gennaio va in piazza, anche lui, e non hanno dormito perché di notte si è parlato continuamente. Io mi immagino che nella notte hanno steso una specie di manifesto, non è sicuramente vero, ma io me lo voglio immaginare lo stesso. Le persone devono capire, e siccome fanno finta di niente, adesso saranno costretti a capire. L'Italia anestetizzata, sempre occupata ad altro, l'Italia devastata e spremuta dalla violenza della mafia, l'Italia che ha chiuso un occhio già da un bel po' di tempo e sta per chiudere anche l'altro, l'Italia addormentata in un benessere da 4 soldi, l'Italia che ha votato Lega pensando al futuro e si ritrova in un nuovo fascismo. Questa Italia si deve svegliare, deve svegliarsi come un bastone che ti arriva in faccia. Antonio sta guardando le notizie a casa davanti al televisore ed è incazzato perché non aveva previsto niente. Adesso Rosarno è fuori controllo, è piena di sbirri e africani che protestano, e tutto questo va contro quello che hanno fatto lui e la sua famiglia da anni. Bisogna riprendere il controllo. Allora la prima cosa che pensa è: bisogna scendere in strada. Le persone devono rivedere i Bellocco che girano per la strada, che tengono sotto controllo la situazione. Perciò spegne la televisione, prende le chiavi della macchina ed esce. Daniel è in mezzo alla strada, sta andando all'ex opera Sila, dice che ci sono dei problemi, ha una mazza di ferro in mano. Antonio Bellocco va per strada, è una parte deserta della città, la guerriglia urbana è da un'altra parte. A un certo punto davanti a sé vede un africano. Daniel sente il rumore della macchina, si gira e vede la macchina di Antonio Bellocco, non sa che è Antonio Bellocco, però in qualche modo sente che lì dentro non c'è una persona qualsiasi, c'è uno di quelli che hanno fatto in modo che si arrivasse fino a questo punto. Antonio Bellocco spinge il piede sull'acceleratore, punta proprio verso Daniel, vuole spaventarlo, però più si avvicina, più pensa che forse può fare anche qualcosa di più che spaventarlo. Daniel, mentre vede la macchina avvicinarsi, stringe inconsciamente più forte la spranga di ferro nella mano destra. Sono quasi lì. Antonio Bellocco sterza bruscamente come per investire Daniel, che si sposta. Viene solo sfiorato dalla macchina e sulla scia del movimento. Alza la spranga in aria e con tutta la forza che ha la dà sulla macchina, che sbanda per la sterzata, e poi appena sentito il colpo Antonio Bellocco inchioda. Un solo secondo per pensare: che cazzo ha fatto? Che cazzo ha fatto? Come si permette? Come si permette di fare una cosa del genere? Nessuno si può permettere di fare una cosa del genere, che sia uno sbirro, un politico, neanche il Padre Eterno! Scende dalla macchina. Daniel vuole avanzare ancora e dare altre mazzate sulla macchina, ma i carabinieri hanno visto tutto, intervengono e prendono per le braccia Daniel, lo tengono fermo. Antonio vede Daniel e i carabinieri, fa per avventarsi contro di loro. Vaffanculo! Vaffanculo! I carabinieri lasciano Daniel e prendono Antonio. E poi un soffio. tempo non misurabile, perché Daniel e Antonio si guardano negli occhi. Si incontrano per la prima volta, fuori urlano, ma dentro si guardano. Hanno la stessa età, quasi 30 anni. Entrambi non sono nati poveri. Entrambi hanno fatto la scuola. Entrambi a un certo punto della loro vita si sono ritrovati da soli. E hanno fatto scelte differenti. E qui adesso c'è il lieto fine, no? Il buono vince, il cattivo perde. Il lieto fine, dai, deve andare così. Deve andare così perché Antonio Bellocco viene arrestato. Viene accusato di resistenza pubblico ufficiale, però dopo due giorni accusato di associazione mafiosa. Un po' come Al Capone, no? Solo che a fottere Al Capone c'era il fisco, la finanza. A fottere Antonio, gli africani di Rosarno che hanno alzato la testa. È questo, è il lieto fine, è così che deve andare. Antonio in carcere, Daniel libero. E invece no, perché dopo due giorni la piana di Gioia Tauro viene svuotata. Più di 2000 migranti vengono spediti al centro nord con treni e pullman. 200 vengono portati a Bari e a Crotone nei CIE, i centri di identificazione ed espulsione. Dopo la lotta, Daniel viene imprigionato come Antonio, solo che Antonio sta in un carcere vero e proprio, e invece Daniel sta in un carcere che si chiama CIE. Antonio incontrerà un giudice, invece Daniel incontrerà qualcuno a cui spiegare il suo viaggio dal Lagos fino a Lampedusa e poi fino a Rosarno. Io escludo che lui potrà parlare di Goethe, di economia, di motivational books. Però forse l'unica cosa che c'è da sperare è che non venga espulso in Libia proprio adesso. Ma questa è proprio un'altra storia. Così termina la storia di un viaggio. Avete ascoltato e avete veduto ciò che è abituale, ciò che succede ogni giorno. Ma io vi prego, seppur sia consueto, trovate lo strano, inspiegabile, seppure normale, quello che è usuale vi possa sorprendere. Nella regola riconoscete l'abuso e dove l'avete riconosciuto, procurate rimedio.